Vabbè, questo non è un preamp, quindi magari... No, stavo cercando un altro microfono, vediamo un po' se riesco a trovarlo, così almeno faccio due fotografie e diamo tutto completo, con staffa e quant'altro. Giulio, tu come lo senti? Un po' diverso, vero? Sì, io sento quella classica modulazione di un microfono, ma è abbastanza buona, è anche forte sempre quello. Vai, ti. No, va bene, Giulio, volevo provare se questo microfono era compatibile, perché non ho voglia di fare né cablaggi né nient'altro, dai. Va bene così, allora, gli lascio questo microfono. Sì, ma va benissimo, non è un problema, va benissimo. È chiarissima, per cui più che bene, insomma, ecco. Va bene, dai. Allora, dopo ti mando qualche foto della bobina, eccetera, per farti vedere come la Mantova Turbo, che suppongo che anche la Mantova 5 dentro la calotta sia uguale. Dopo ti mando qualche foto, qui ce li ho. La mia è una Mantova 1, una vecchia Mantova 1, però me l'aspettavo in buone condizioni invece. E poi ci saranno anche i bulloncini, quelli che fermano i radiali, anche quelli saranno da tagliare, da togliere, che sono tutti grippati, bloccati, e magari trovare un altro sistema o filettare da un'altra parte, da sotto, ma bisogna vedere, dai. Anche quelli io li avevo sostituiti da quando era nuova l'antenna, l'avevo già sostituiti tutti in acciaio inossidabile, se no quelli con l'ossido poi a svitarli è un problema, invece con l'acciaio inossidabile li sviti con tanta facilità, per cui non è un problema. Quello l'avevo fatto da subito io. E lo stesso discorso vale anche per le fascette che ci sono nei vari elementi dello stile centrale, lo stesso, anche quelli li avevo sostituiti in acciaio inossidabile, perché la casa te li dava in ferro e il ferro non vanno bene, anche se ferro zingato, però molto ci mettono a marcirsi, a rigenirsi. No, quelli li ho tutti facilmente invece, perché sono in un pacchetto a parte, ho visto che sono tutti assieme, però quelli si possono cambiare sempre. Ho visto molto ossido, però quelli che fermano i radiali sono bloccati completamente, quelli quando vai a toccarli si spezzano, si può provare a scaldarli, non lo so, ma ormai rischi di danneggiare l'alluminio. È un problema, scaldare l'alluminio non so fino a che punto ne vale la pena, perché non credo che sia una cosa facile. Comunque diciamo che è fattibile, prova con lo svitto qualcosa. Farà anche quello, può essere che si sbloccano. Dai, Tino. Sto scendo, sì. Vabbè, scusate, sono mezzo impegnato, Giulio, che sto conservando un po' di roba e sto sistemando questa radio. Sono in Corrix, dai. Va bene, Tino, d'accordo. Ok. Buon Corrix, allora, ti. Comunque va benissimo con la radio, non è un problema, ti. Avanti, fra. E qui è ritornato il tiro di una volta, ormai siamo abituati a sentirlo con quella voce prestante, forte, dai. Quando cambi il microfono poi alla fine sembri un'altra persona. Brutale. Va bene. No, è perché devo fare un po' di pulizia, cioè sono un po'. Insomma. C'è un casotto qua nella scrivania, quindi adesso mi ritiro un pochino, dai, rimango in Corrix, così faccio un po' di pulizia. Sono sempre qua comunque, vi faccio presente che sono in Corrix. Sì, capo, dai, siamo qua. Hai capito, giù? E poi ho visto che come tocchi radiali sono pieni di fibra di vetro, quindi subito ha prurito nelle mani, bisogna trattarli con i guanti e magari levigarli appena appena e buttargli su un po' di vernice per bloccargli la fuoriuscita di quella fibra. Quello sì, quello lo so, purtroppo la resina è così, cioè la fibra di vetro è così, ti lascia quella specie di cose, devi stare attento anche alle mani, usa i guanti per quando li pulisci e poi te li vernici, dai una verniciata anche di trasparente e va bene lo stesso, così riesci a sostenere un pochino la fibra, la vernice, per cui sarebbe un modo giusto secondo me per mantenerli ancora vivi, dai, ancora buoni, dai, fra. Sono rimasto un po' deluso, dai, pensavo che fosse più messa bene. Vabbè che sarà 20 anni, no, di più. 20, 26, 27 anni ferma, sotto la tettuglia, dai. Quindi ne è passato di tempo. Sì, ci vuole anche la mascherina per evitare di respirare quella resina, mamma mia, per carità. Poi bisogna avere anche quel tubo, quello della... quello che sorregge la canna, dai. La canetta in vetroresina, sempre che sia buona, magari in marcia anche quella, vorrei sostituire anche quella. Ma non credo, però, non credo. Al limite ci puoi infilare anche un bastone di legno dentro per rinforzarlo se tu hai quella paura che non possa reggere lo stilo centrale. Vedi com'è la condizione, com'è, ma se tu hai paura per dire che possa il tempo averla indebolita o che, ma no, non penso. Ci metti anche un pezzo di legno all'interno e fatto su misura, e anche quello contribuisce a sostenere la stabilità e la forza del vetrorisina per mantenere lo stilo centrale. Sì, se all'interno non ci passa nulla, si potrebbe anche fare, ma se ci passano fili elettrici, roba così, viene un po' male. Se c'è una bobina interna, io non lo so, io la bobina l'ho vista solo esterna, avvolta diciamo sopra esternamente al tubo di vetrovesina. Dentro non so cosa ci sia, finché non tolgo i rivetti non so cosa ci sia dentro. No, è vuoto dentro, è vuoto. Tranquillo, è vuoto. Te lo sto dicendo, passa solamente questo filettino, ma lungo la parete del tubo, dunque, che poi esce e va a collegarsi in quel bullone dove si attacca l'aspirale, ma niente di più, poi tutto il resto è vuoto. Se poi ci metti il bullone passante, come ho fatto io, al posto dei rivetti, vuol dire o gli fai l'incasso e lo fai passare più giù il legno, o perlomeno arrivi al bullone e ti fermi lì. Tanto la forza che fa è molto più in alto rispetto ai rivetti e all'eventuale trafila che potresti mettere per ricollegare la calotta. Non è un problema, è fattibilissimo, non è un problema. No, se all'interno è vuoto è tanto meglio. Allora, no, io pensavo che ci fosse una parte elettrica anche all'interno, a livello di fili di rame. Beh, se all'interno c'è dentro ci puoi infilare tranquillamente il bastone, anzi, gli fai il buco anche nel pezzo di legno, così non rischia di cadere, di scivolare verso il basso, dai, rimane fermo. Gli fai il foro passante e prende tutto. Anzi, così puoi anche stringere senza fare danno, senza schiacciare la struttura. Infatti è così. No, tranquillo, è vuoto, perché la bobina passa, è il tubo che entra dentro la bobina, cioè praticamente la bobina, quella che eventualmente vorrà rifatta o vorrà al limite pulita o vorrà, che so io, pulito il contatto che poi va a massa, ecco, quelle cose le devi vedere, perché è bene che quando sarà piazzata l'antenna sia cortocircuitata, no? Perché nascono così, anche se funziona lo stesso, anche se non è cortocircuitata, però invece è considerato che nasce così per la corrente elettrostatica, è meglio già che stai facendo il lavoro, che apri la calotta, controllare anche il contatto se è perfetto, perché il contatto, un pezzo di quel tubo, una parte di quel tubo, di quella bobina, un paio di centimetri, e sai come è fissato? Al tubo c'è un incavo, un taglio nel tubo, e quello è entrato dentro così, proprio praticamente a pressione se vogliamo, e poi è ribattuto con un cacciavite a taglio. Già ti mando la fotografia dopo, così te ne rendi conto, sicuramente è uguale, la bobina è sensata uguale, magari il mostro sotto è diverso da quello di oggi, perché c'è il piattello nella mantova tubo eccetera eccetera, mentre la mantova 1 ha un diverso collegamento dei radiali, è diverso, anzi migliore addirittura quello della mantova 1 come collegamento dei radiali. Però la bobina io sono sicurissimo che è uguale alla mantova tubo. Sì, quando hai tempo me la mandi, così me la studio prima di smontarla, almeno so già dove intervenire. Lì dove si è rotto il filo, dove attacca la spirale, lì se il cavo me lo permette ne taglio, non so, lo spello qualche centimetro, gli infilo un capicorda a occhiello, Ma gli posso mettere anche un punto di saldatura a stagno per il contatto e quello lo risolvo. Poi la parte bassa della bobina, quella non lo so come è attaccata, però si potrà fare qualcosa, dai. Quel pezzo di filo è saldato alla bobina, mentre l'altra parte della bobina entra dentro questo incavo che c'è nel tubo, il piantone, chiamiamolo così, il piantone, ha un taglio nel fianco, lungo all'incirca un paio di centimetri, 2-3 centimetri, e una parte della bobina entra proprio dritta, in modo che poi la calotta si infila perfetta, perché se la metti sovrapposta magari non entra la calotta, invece c'è appositamente questo incavo dove il filo della bobina va inserito dentro per fargli fare un buon contatto. Poi prendi un cacciavite a taglio, prendi e un martello, dai 3 colpettini in modo che l'alluminio, come dai il colpetto, si allarga e prende il contatto massimo col filo della bobina. Ecco come è fatto, così è fatto nella mantova tubo, e ripeto, sicuramente così è uguale, a parte il morso sotto. Il morso è diverso, questo non ci sono dubbi, perché la mantova tubo ha un piattello che poi va fissato sotto la calotta, va fissato e tramite i bulloncini si fissa le radiali, mentre invece la mantova 1 ha un morso bello fatto, consistente, grosso. Quello probabilmente, non so se poi i radiali si possono avvitare bene o se possono entrare, non so, devi vedere se le boccole non sono ossidate, se sono sporche, non lo so, devi vedere quello anche, per fare contatto con i radiali. No, le boccole vogliono tutte ricostruite perché sono marce. Qualcuna è rimasta anche dentro, ho visto nel moto, come lo chiami tu, sulla base. Quindi quelli bisogna toglierli, magari trapanare per pulire il tutto, togliere le viti, quelle bloccate, anche quelle vogliono tagliate a zero, trapanate, e cercare di mettergli una vite nuova, filettare e fare qualcosa, dai. Trovare un sistema. Poi altre cose, no, non c'è altro. Anzi, qualcuno ha visto che la bobina alla parte bassa ha fatto la stessa cosa, anche lì ha messo un occhiello e non ho capito se ha fatto un foro da qualche parte e l'ha praticamente messo sulla massa, sulla base, sul morso, l'ha avvitato, ha capito, a occhiello sempre. Sì, anche così è fattibile, certo, anche così è fattibile. Mettendo una superficie dall'altra parte, farlo uscire fuori e fissare l'occhiello, appunto un passa l'occhiello al tubo direttamente, anche così si può fare, certo, però non è che nasce così, non nasce così. Dai, finché non la smonto, non ho idea, dai. Adesso quando arriva la foto provo a dare uno sguardo, vedo un po' a grandi linee, se si assomiglia. Io ho girato uno sguardo così veloce, al volo, ho visto che era messa male, l'ho riappesa. Ok, sì, no, ma si può ristrutturare tranquillamente, la mantova non muore mai, basta che uno gli faccia la manutenzione che serve e non muore mai, questo è scontato, sicuramente così. Poi vabbè, c'è un po' di ossido sopra, quella vuole un po' pulita, dai, con qualche spugnetta, no? Un po' abrasiva, non dico molto, per non rovinarla. Poi non so se si possa anche verniciare, dargli una mano di trasparente dopo, pulire bene magari tra un innesto e l'altro, sbloccarle, smontarle, pulirle e riassemblarle, dai. Sì, quello sì, certo, si può fare anche così. Sì, basta una cazzolatina con la carta abrasiva o una spugnetta abrasiva sottile, e poi la pulisci bene, dai una passatina volendo di impregnante e già protegge, insomma, ecco, quello non le fa niente, diciamo, anche se poi col tempo si sporca di nuovo, non le fa niente, però se la vuoi tenere un po' più pulita gli puoi dare anche una passatina di impregnante, certo. E poi trasparente non gli fa male, dai, perché una volta che poi li togli con la patina rimane l'alluminio nudo, magari può essere aggredita più facilmente dagli agenti atmosferici. E poi visto che manca sopra il ragnetto, come si chiama volgarmente, l'isolatore che c'è su. Vabbè, quello sì, ma non è un problema, quello se vuoi te lo puoi anche ricostruire, ci metti un pezzo di cosa isolante sopra. ci metto un tappo di sughero, un pezzo di legno, ci infili dentro e ci metto un tappo di sughero, va bene lo stesso. Quello serve per la corrente elettrostatica. No, io ce l'ho ancora nuovo nuovo, il ragnetto della Mantova, per cui va bene. Ma ripeto, se proprio vuoi diciamo ricostruire, ci fili un pezzo di legno dentro il tubo, ci infili e poi ci metti un pezzo di sughero o un pezzo di plastica, quello che vuoi, va bene lo stesso. Sì, anche nella mia, mi ricordo 30 anni fa, l'avevo ricostruito con un pezzo di plastica, l'avevo rifatto più o meno a grandi linee. L'importante è che isoli, dai, qualcosa. Non è quello il problema, dai. Lui, appunto, vabbè, con un po' di pazienza, già si mette a posto, non è un problema. Piano piano, quando hai tempo e quando hai voglia, te la fai, anche un pezzo per volta. Non è detto che ti devi impegnare per fare dal primo lavoro fino all'ultimo che ci vuole. Lo puoi fare anche a tempo perso così. Quando ne hai voglia, te la ripristini. Una volta ripristinata, poi fai in modo di piazzare sul tetto e sei a posto. Oppure ti piazzi l'autocostruita e va bene ugualmente, te lo posso garantire. Io adesso ho l'originale della Game Master, però non c'è la differenza, non c'è differenza da quella che avevo prima autocostruita, per cui non, anche perché le misure erano quelle, perciò sarà stata una fortuna che sono riuscito a farla funzionare al primo colpo, che senza fare poi nessun aggiustamento, so solo che è andata bene, come per te è uguale. Sì, non so se sta rendendo al 100%, infatti per quello che volevo comprare un analizzatore d'antenna, per vedere un po' come c'è entrata, come si è bilanciata, se sta lavorando agli uomo che dovrebbe lavorare o se magari è da, come si, da limare un po' qualcosa, dai. No, tu qualcosina l'hai guadagnata, con questa qualcosina in più ce l'hai, ma non molto, qualche mezzo punto di Santiago l'hai guadagnato qua. Ok, vabbè, sono fatto che con l'autocostruita si arriva quasi alla originale, è già tanto, è già molto ma molto importante, soprattutto senza un analizzatore di antenna, senza niente, senza fare nessuna cordatura, perché è andata bene al primo colpo, l'ho autorizzata così, ciccia, adesso vabbè, un pochino va meglio e sono contento. Anzi, guarda, ti chiedo una consulenza. Stavo guardando oggi un analizzatore che è un giacattolino cinese, ma è micidiale. Si chiama Nano VNA. Se c'è a disposizione un telefono o un computer, adesso no? Un analizzatore d'antenna? Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Certo, uno professionale costa un pochino. Sono cose che costano intorno alle 2,50, una cosa del genere. Vanno bene, sono molto utili, ma comprarsi l'analizzatore per farsi un'antenna non so fino a che punto ne valga la pena. Vabbè, uno ne vuole spendere quei soldi, se lo prende e poi se ne letta anche a farne altre, per dire, no? E non è che ti analizza, ti segna tutto, ti segnala tutto, poi ti segnala anche gli ohms, tutto ti segnala l'analizzatore, per cui è uno strumento utilissimo. Averlo sarebbe una cosa grandissima, però io sinceramente non lo comprerò mai, no, assolutamente no. No, ma cosa poco questo, lo trovi a 30 euro, 29 euro, 28 euro, 30, 38, qualcuno lo vende a 50, però siamo, la cifra è quella. Se guardi su YouTube ci sono i vari radioamatori che ne parlano abbastanza bene, per quello che costa fa tutto, lo puoi anche tarare, c'è scritto come si tara, c'ha i tappi, c'è il carico fittizio, c'ha il neutro, c'ha quello che è in corto, no? Perché va tarato, ti viene con due cavetti, con due prolunghe, più il caricabatterie perché è anche ricaricabile. Ma è piccolissimo, ci sta dentro una mano, guarda, quanto un pacchetto di sigarette. Display, figurati, mi sembra che sia 2,8 pollici, quindi molto piccolo. Beh, se è così che costa poco, va bene, allora si può anche comprare, certo. Certo, tu quello che mi stai dicendo io ci credo, però bisognerebbe anche provare in persona, perché sì, tu mi stai dicendo che l'hai letto al computer, i radiamaturi che l'hanno testato, che lo usano, e vuol dire che funziona, speriamo bene. No, non l'ho mai visto, la verità, non l'ho mai visto, sì che non so nemmeno come si è fatto quello, ho solo visto quelli professionali, quelli come si deve, quelli grandi, ma intorno ai 250, 300, poi ce ne sono anche da 700, 800, 900 euro, ma quelli sono ad altissimi livelli, ma questo se per 20, 30 euro si può anche comprare, non è un problema, allora sì. Sì, guardalo, poi magari mi dai un tuo parere, e poi ti guardi anche tu magari sui video dei vari radioamatori, più persone l'hanno testato, dai, addirittura c'è anche su Roger K una discussione, anzi più di una ce n'è, uno addirittura li ha provati quasi tutti. Anche il più scarso, il più quello che costa meno fa il suo sporco lavoro, diciamo, dai. E ti dà tutto il grafico, ti misura tutto, ti può misurare un filtro, induttanza, reattanza, tutto sull'antenna, perdite di un cavo, qualsiasi cosa. Hai un bel giocattolino, poi per quello che costa si potrebbe tentare, dai, anche per curiosità. Ah beh certo, non c'è da meravigliarsi, perché tu come mi hai detto che è una cosa, uno strumento cinese, dunque i cinesi già lo sappiamo che sono bravi in fatto di elettronica, e allo stesso tempo sono anche poco cari, per cui non c'è da meravigliarsi che funziona anche bene, nonostante che costa magari 30 euro. E perché no? No, la verità, non l'ho mai visto, non so cosa dirti. Te l'hai scritto il nome, così magari te lo controlli quando c'è tempo. Sì, magari me lo mandi, così me lo posso guardare anche al computer. E così, sono curioso adesso di vedere di cosa si tratta. Aspetta che prendo il telefono, quindi ti mando direttamente il link. Ok, d'accordo, Fra, ti ringrazio. Scusa che stavo parlando in verticale qua o giù. Sì, non è un problema, Fra. Sì, intanto nel frattempo me l'ho chiamato, infatti stavo cercando la fotografia di quella bobina che adesso te la mando. L'ho già trovata, siccome ce l'ho nel tablet, e dunque adesso la stavo evidenziando e te la mando fra un po'. Così vedi la bobina come è fissata come è filata dentro il tubo di resina. Ok, Fra, dai, a me mi hanno chiamato per la cena, per cui devo scendere. Mi dispiace lasciarti, però purtroppo sono già a tavola a casa. Ci sentiamo, Fra. Ciao, Fra, alle prossime, dai, ti mando intanto nel frattempo la foto, e così te la guardi e vedi un po' come la bobina, ok? Ti saluto intanto, ciao, buonanotte. Ciao Giulio, ciao Franco, buonasera. Giulio, se stai andando, buon proseguo. Io mi ho potuto riprendere solo adesso perché stavo facendo qualcosa, ma è andato tutto a catafascio. Ma ciao Natalie, ben sentito. Avanti Giulio per i saluti. Ok, ciao Natalie, ciao. Ci sentiamo, dai. Eventualmente a domani. Buonanotte a tutti e buonasera, dai, ciao ciao, ciao Natalino e ciao Franco, alle prossime, chiudo. Cappa, ciao Giù. Ciao Giù, un abbraccio, un bel sito. Io te ne ho inviato uno a caso, di quelli analizzatori, però ce ne sono a bizzeffa, a milioni, anche più a buon prezzo. Poi mi dai un tuo parere, dai, grazie ancora. Buon tutto e bocca al lupo per tutto. Avanti Natalie, cosa stai facendo? Stavo piazzando un impianto satellitare, però è andata male perché mi vogliono far togliere l'antenna da dove è quella TV, e allora mi stavo piazzando una parabola, ho comprato delle cose e tutto, però non funziona nulla. Boh. Ma l'hai puntata bene? Eia, mi hanno prestato anche un doppio illuminatore perché il mio non... segnale non è biglia a me. Ma come mai? Io mi ricordo, avevo piazzato a mio cognato, abbiamo rispettato più o meno l'altitudine senza strumenti, guardando le altre parabole più o meno dove erano puntate, i gradi, se il palo era piombo, l'asta c'erano i gradi segnati nella regolazione, e l'abbiamo centrata quasi subito. Natali, scusa, devi mettere la parabola, cioè la gradazione, a 45 gradi massimo, tra i 43 e i 45, è puntata a sud, non è sbagliato, devi puntare a sud, non puoi vedere niente, anche la gradazione va bene, forse prova, vedrai che ce riesci. Ce l'hai il finder? Ce l'hai? Dovrei averlo in campagna lo strumento, e c'era Alessio qua, stavamo provando con Alessio, non visemmo ridicidi, manco urgudo e cose suio, non manda segnale l'antenna, in tutte le maniere abbiamo provato giù. Boh, strano, perché io l'ho sempre piazzata e anche abbastanza veloce. Va bene, vi lascio, scusate, riprendi fra, dai, ciao a tutti, grazie per il messaggio che mi hai mandato fra, dopo guardo, ciao, buonanotte. Cappa, buona carica, buon tutto, buonanotte, e poi ti mando anche quella, del video su YouTube, dai. Natali, anch'io non ho avuto problemi, la mia cognato l'abbiamo montata facilmente. Ma sei sicuro che che sei aperto per quella polarizzazione? Non è che c'hai i muri che ti impediscono qualcosa? Già sono aperto, ci sono parabole di tutti i tipi qua, in queste zone qua. Comunque non piglia segnali, non venuto da di là. Perché vedi, ho visto per esempio nel palazzo nostro qua, molti, visto la piazza, non sia da un lato che all'altro, sicuramente è una via di mezzo e non riescono a ottenere il massimo del segnale sulla facciata, perché rimane proprio una posizione particolare. Invece sul tetto non ci sono problemi, dai. Purtroppo sul tetto io non ci posso salire. Lo so, insomma, non te ne andavi una taribù. addirittura mi vuol fare togliere le antenne TV che sono nel palazzo dove disturbo io, insomma, e me le vuole fare togliere lunedì. Se lunedì si attriva a toccarmi le antenne, diciamo i carabinieri. Chiunque sia, se il fotografo lo picchio pure, quindi busca pure una sussa. Chi è il tuo fotografo? È uno che si crede di essere un giornalista, però io gli faccio la faccia che è caporalo live, li labbri mi, che caporalo live li voglio, a chi l'un fieggio. Ma sempre quelle persone sono, quelle famose? Sempre quelle persone, quelle che minacciano, che fanno, come si avvicina l'antenna mia, li sto chiamando il 112, immediatamente mi. Camminate a venire, mi se non lo sparo, c'ho il fucile in mano. Cosa mi è uscito? Ma un pezzo di microfono mi si è staccato, Natali. Addirittura. Io mi ho comprato questo qui, l'apparecchio, questo omologato, almeno esce come cristiano. Si è staccata una placchetta in alluminio, era incollata, deve essere dopo 40 anni si è staccata, mi è arrivata in mano adesso. La placchetta praticamente rimane dietro la capsula, una placchetta di decorazione, dai, dopo gli metto due gocce di cola e gliela rimetto, niente di grave. E infatti, ui, bene, sto uscendo di radio io. Sì, ma che apparato stai usando con questo bip? Un Superstar 3009, però è bloccato, è omologato, è bloccato a 40 canali, più di 3 watt non dà, capito? Ma c'è meglio di radio, Non c'è paragone fra. Questo si vede, si sente che non è castrata la radio, E poi a quello non li puoi fare nulla, questi. Ha bisogno di mancare un dreamer per la LC, non si può aprire di radio, ce l'ho rimesso nella scatola lì. Chi lo vuole si rubiglia, o se no ti ricudi nel garzonetto. No, poverino. Lo buttarlo no, Ehi, sto dicendo che no. Addirittura quello di Antonello è peggio del mio. Quello lì addirittura da mezzo watt. L'ha messo in Italia e non gli dai watt, brutti. No, leggendo nei vari forum, so che qualcuno l'ha modificato, ha fatto qualche ponte all'interno, però devi smontarlo, devi fare un paio di punti, mettere in corto qualche cosa e migliora parecchio. Ma io l'ho preso per essere omologato, non robusto Duca. Se io lo tocco è peggio andare al buio, già lo sai perché. Visto che se lo vuoi regolare, anche se lo regoli con cacciavite, perdi tutto, non cambia niente. Vedi tu, dai. Io già lo so che non lo devo toccare, non tocco neanche questo, figurati. No, questo sembra, sì, c'è un tipo come il mio, come il Galaxy, come il Samurai. È un superstar, 3009, capito? Almeno c'è la lancetta smitra, che bello dopo tanto tempo. L'analogico è sempre analogico, ci rimane nel cuore, anche a me piacciono questi smitra digitali. Ui, adesso bisognerebbe vedere cosa mala sorte ha questo illuminatore. Questo illuminatore controllo lo spezzone del cavo, perché segnale non ne prende questo apparato. Il cavo è nuovo. Ehi, comprato nuovo stamattina, il decoder lo stesso, nuovo, TV Sat proprio, c'è anche la scheda TV Sat. Ascolta, ma per attivare TV Sat cosa devi fare? Mi sembra devi telefonare, prima era così, non so se sia ancora così, devi abilitare la scheda. Ma non lo so cosa devo fare, io stavo cercando di installare la roba prima del lunedì, o sai che me ne buttino giù le antenne, non me ne accorgo, capito? E se no non vedo più la televisione. Mi ricordo una cosa del genere, che devi abilitarlo quel decoder tramite la scheda. Aspetta, magari faccio una telefonata a mio cognato e se si ricorda, perché io l'avevo piazzato a lui, però ti parlo di un bel anno fa, adesso non ricordo, e ti faccio sapere, dai. E chiamalo, dai. Ciao. Sono giù. Chi è? Beh, ho sbagliato, ti ho chiamato Giulio. Oh, Natali. Oh. Allora, anche lui si ricorda così, quando abbiamo piazzato, ha telefonato, gli ha dato un codice da inserire per abilitare la scheda TV Sat, capito? Allora gli aveva chiesto anche il numero dell'abbonamento perché prima non la pagava con la bolletta, capito? Quindi volevano un riscontro. Tutto qui. Però adesso non si paga niente, così è. No, adesso non ti chiedono neanche l'abbonamento, perché l'abbonamento lo paghi in bolletta. E quindi non so cosa ti possono chiedere, buh. Però mi ricordo che abbiamo telefonato e ci hanno dato questo codice per abilitare quella tessera lì, quella scheda. Sennò non so se non vedi niente o se non vedi certi canali, buh. Non lo so. Però adesso guardo anche su internet, dai. ICAM è il coso, il mio decoder. E hai ICAM, già so che è roba buona. Andi al sito Salvatore Aranzulla. Comunque c'è un numero verde, un numero da chiamare. Ho capito. In base al sito Salvatore Aranzulla, come attivare la smart card TV Sat. Se preferisci agire tramite telefono, componi il numero 06-891-895 e segui le istruzioni della voce guida per procedere con l'attivazione della cassa. Tutto qua. Cassa. Non so se sia roba recente, questa qua, vediamo un po' se sia una data. No, non vedo niente qua. Oggi non è entrato nessuno. Beh, c'era Luca, è entrato Riccardino, che è entrato poi uno, quello di Ossi, come si chiama, Antonello Barracuda, era in macchina qui a Sassere, poi non ho più sentito. Doppio Room, c'era Giulio, vabbè, Giulio l'ha sentito, non mi ricordo altri, ma poi c'era anche Tino. Ok, da adesso me ne vado a cenare anch'io e poi mi curico, perché sono con un mal di schiena della Madonna oggi. Io un po', ieri sera sono andato a pescare, a Sara, che lì è amareggiata, mare di fuori, e mi ho pulito il pesce lì al mare per non fare casino qua a casa, e un po' di mal di schiena mi è venuto per quello. Poi stavo usando anche la canna da 6 metri, che l'altra ho rotto un anello, quella che uso in genere da 4 metri e mezzo, leggerissima, e mi ha causato un po' di mal di schiena. Dai. Cosa volevo dire? La tessera comunque tu l'avevi inserita quando hai fatto la ricerca? Sì, sì. Però qua bisogna... c'è scritto che devi attivarla, Vedi un po', dai, informati bene. Se vuoi attivata, segui le istruzioni. Questo numero verde. E poi vediamo, dai, fammi sapere. Buona cena, buon tutto, un abbraccio a tutti, dai. Alle prossime, anch'io vado a fare carica. Ciao, ciao, alle prossime. Buona carica. Ciao già. Ciao già. Tu mangiato, no? No, mi sono addormentato, ero stanco, mi sono addormentato mentre vi ascoltavo, adesso mi sono svegliato adesso. Questa stanchezza che c'ho strana, non lo so, forse è anche il tempo, non lo so. Non lo so neanche io, no. Ma io ero stanco perché mi sono alzato già, sono già 6 giorni, 7 giorni, mi sono alzato alle 5, cavolo. Ho ancora domani e poi lunedì riposo, meno male, è finita la settimana di Tour de Force. Ebbene Sara, hai preso nella vetta? Sì, sì, sono andato bene, sono andato bene. Più occhiate ho preso ieri, Sara un po' di meno. Però ero da tanto che non prendevo Sara diciamo, da 400 grammi, di mezzo chilo. Invece questa volta siamo andati bene. Però c'era mare, mi sono anche bagnato. Fino alle ginocchia, un'ondata mi ha preso mentre stavo pulendo il pesce, poi per la fine ero da scemo, per riempire un secchio d'acqua per pulire il pesce, mi sono bagnato. Dai. Sì, vabbè. Ma di notte siete andati? No, no, ieri sera, come sono uscito da lavoro, fino alle 9 eravamo già a Porto San Nicola a berci una birretta. A Cannafiscia? È galleggiante, no, Cannafiscia no. E che trovare un punto ieri, perché c'erano onde alte, 10 metri, trovare un punto dove rimanere in pesca era stata una grande manovra, perché c'era un bel di mare ieri, cazzo ogni onda. Con gli occhiali ogni 10 metri dovevo lavarli perché non vedevo più nulla. È un casino con la corrente, col galleggiante. E devi trovare il gioco di correnti dove lo porta in fuori un po'. La devi studiare un po', dai. Ho fatto un po' di strada, avevo fatto roba di 2-3 km a piedi con lo zaino a spalle. Già lo so, sì, ne ho fatti quei lavori lì anch'io. E adesso mi sembra che con Natalino ci mettiamo al collo, qualche sera ci andiamo anche noi Natalino. Natalino è andata a mangiare. Io ho le canne ferme già 2 anni, non ci sto più andando per studiare il piede. Se no andavo a fare i surfcast e ne prendevo anche io però andavo dalle 8 di sera fino alle 11:30 di notte. A volte se mangiava mi trattenevo anche fino alle 3 alle 4 di mattina. Ma diciamo che c'erano volte che non prendevi nulla, che ti andava proprio a botto, ma c'erano volte che ti faceva piacere anche restare. Beh, la pesca è così. Ma per il piede, visto che soffri così, se il peccato ti posa una sedia, una volta che lanci le canne devi aspettare. Invece lì a Bolognese io sono sempre in piedi, sempre in piedi. Anzi, devi stare attento alle onde, che a volte arrivano queste serie di onde che sono più alte del normale, che ti porta via tutto. Sei sempre posti tranquilli. Se possibile in diagonale, magari dove l'onda ti passa sotto, però in diagonale, non di fronte, dai. Guarda, quando andavamo a Mollocattaio col mare così, c'era mare di fuori, cazzo, che a volte girava, cazzo, e saltava sul molo, dovevi trovare il momento per passare quando non c'era l'onda. Una volta che sto lì qui ha sbagliato il tempo, l'hai cuttucato e acculturata l'onda, ha giocato la palla in terra, ha fatto il bagno completo. Che è andato a me, che l'ha portato via, tipo ha cazzettato, hai visto che ha cazzettato, ne ha buttato giù una parte del molo, che mi sembra che sia ancora così. A Molo Cattaneo noi mettevamo i filaccioni dalla parte degli scudi e dalla parte interna peschiavamo con la canna, e intanto sentiva imbarazzo, ma non è andato più correndo, c'erano le scale, salivo in fretta e prendevi i miei groghi, i mulere, di tutto. Anche pesci grossi, molte volte. Mettevi la sardina, quello che attaccava. Con gli ami grandi, ami d'acciaio. E già andava bene, dai. Mi divertivo. Adesso sono un po' di tempo che non ci vado. No, non è che soffro il piede, praticamente c'è l'uncera, cazzo, se vado in spiaggia mi metto tutta la sabbia dentro. Devo andarci con i calzari, capito? E devo mettere i calzari per non entrarmi la sabbia. se era questo ulcero aperto è un casino, sì. No, vabbè, noi andiamo vestiti, io mi sono bagnato perché per riempire un secchio d'acqua, va, perché il pesce me l'ho pulito al mare, che preferisco sempre fare così per evitare casini a casa, dai, e poi è anche più buono, una volta che lo pulisci, lo lavi nel mare, è sempre meglio, secondo me. Vabbè, non perde sapore, certo, l'acqua dolce gli fa perdere un po' il sapore, però quando è fresco non vi mette. Io ho fatto pescando, rientrando a casa e mia moglie cucinando, ok? Ma buonissimo, a pranzo era buonissimo, io ero un momento drumito, ma io non è che vada matto per il pesce. Però in un modo il pesce mi piace, la pizzaiola, è l'unico modo che a me piace il pesce, poi il resto non mi attira. Lo posso mangiare anche col vino, prezzemolo, aglio, un po' di limone sopra, cucinarlo con un po' di vino bianco. Oh, mi piace molto la pizzaiola, specialmente se mangio salmone, filetti di merluzzo, sono ben buoni, io me ne prendo anche sul gelati, perché ogni tanto il pesce bisogna mangiare. Eh sì. No, io sono andato bene, l'altra volta un po' non era d'Italia il pesce, c'era molta meno Italia, perché quando inizia a pasturare arriva di tutto qua, specialmente le orchiate, a volte io non ho capito come fanno, un pezzi di esca enormi, pesci uniti che sono più piccoli dell'amo, qua. E l'amo dentro la bocca, cioè non è di riprendere fuori, sono voracissime le orchiate. Con i miracchi li state pescando? No, noi peschiamo con gamberoni, gamberoni fatti a pezzi, a tocchetti da un centimetro, due centimetri. Ah, no, invece un amico mio si prendeva i gamberi surgelati, i gamberetti surgelati e lo facevano 2 chili, 1,5 chili, così. E pescavano con quelli. Sì, surgelati, e beh, non prendono gamberi freschi, gamberi surgelati. Ne scongelo, non so, un barattolo per volta, capito? Mi faccio le porzioni, me le metto in bustina già, me le preparo già, in modo che mi posso passare una serata di pesca tranquilli, dai. In genere mi basta, una bustina mi basta, un barattolo, dai. Ti rimetti con la crosta o senza? Anche con la crosta a volte, quando mi rompo le scatole, oh, ma a volte te lo sbucciano anche con la col carapace, come si dice, con la buccia. Ho capito come fanno? Dopo un po' ti ritrovi solo la buccia attaccata all'amo. Li mangiamo dall'interno, poi c'è l'occhio. Poi invece l'occhio, sembra così. Non so io cosa invece, quei gamberetti. Quelli trasparenti, quelli li usavo per pescare, li mettevo nell'amo, ci stavano tutti interi, li mettevo così e poi via. Ma li compravi o li facevi tu i gamberetti lì? No, li facevo io al molo con un coppo filo fine. Già li ho visti, cioè, guarda, già sono belli quelli, appena presi sono abbastanza croccanti. È che quando c'è mare come ieri c'erano onde altissime, 10 metri, boh. Figurate che lì a Coscia di Donna c'era una barca in quell'insenatura, gliel'ha portata via, gliel'ha distrutta, gliel'ha fatta a pezzi. C'era una canoa che sbatteva contro gli scogli, infatti poi due ragazzi se l'hanno portata via, se l'hanno presa, chissà da dove si è arrivata quella canoa. C'era un fuoribordo, il motore attaccato, gli si è staccato con la barca, infatti c'era odore anche di benzina alla fine, no? Boh. Quando mai uno c'è una barca lì e non se la controlla, sapendo che c'è una maestrata così, vabbè, fare danno anche, c'era un serbatoio di benzina, l'ho preso, l'ho messo fuori, nella spiaggia, vabbè. Se viene se lo prenderà. Boh. Perché poi fa casino anche in acqua, se si rovescia è un casino. Guarda, e io un po' di tempo sono, cioè, le canne me le guardo ogni tanto in terrazzo, c'ho mulini di Shimano, so, c'ho canne buone, Olympus, però io faccio pesca da self-casting, capito? Poi anche quella ce la facciamo, però ho sempre più avuto fortuna con la mareggiata, è più pericolosa come pesca. però ti, mi diverto di più, perché non fai in tempo a buttare, là, il pesce mangia. Tu quando c'è mare, con mare brutto è anche più vorace il pesce, quando poi li butti la partura, come butti parte subito galleggiante. Però a volte è roba piccola e pazienza. Non sempre va bene, ieri invece ho preso qualche bel pezzo, anche belle occhiate. Mi ricordo anni fa, come si chiamano, le tanute, le cantare, cazza. E che era un bel di mare, e io ero in alto, minimo ero 10 metri sopra il livello del mare. E quindi dovevo portarle su di peso. Quando usi lenti sottili tipo 0,012, arrivare a vederlo a metà, a staccarsi il terminale, cazza, a perdere un pesce del genere, da chilo mi, ti mangiavi le dita, porca miseria. Però purtroppo non possiamo vincere sempre noi, dai, ogni tanto vince anche il pesce. Io di tanuta ne ho preso una da un chilo e due. Sono arrivato al molo e ho chiesto al che stava lasciando, e beh, oggi si prende qualcosa, mangia. Oh, già, non mangia nulla, a me mi conosciamo i buchi. Non mangia nulla oggi. E cosa c'hai di esca? Ho detto, mi ho preso un po' di bocconi dove lavoro, perché non c'era altro. E ho preso un po' di bocconi, oh, no, che con le buccone non mangia. E vabbè, ci tette, un paio di sardine ho preso. Prendo le sardine e comincio, le leggo col filo elastico, le taglio, le leggo col filo elastico e lancio lontano. E quella e l'altra canna l'ho messa a pelo di banchina con il boccone. Beh, come l'ho messa, cazzo, parte il cucchiaino, cazzo, c'è il cucchiaino con la lententina, no? Con il manico girato, no? Per fare da segnalino, parte, cazzo, il cucchiaino è arrivato sino al mulinello, tutti girati, cazzo, pido, cazzo, portami il coppo, cazzo, e facevano apposta, cazzo, per non fartelo prendere, facendo piano piano, così il coppio ce l'avevo dietro, ho mollato un po' la frizione, prendo, se non altro l'ho preso io il coppo, me l'ho compatto io, cazzo, ne è andata, e tutti, cazzo, bobo, ma come ti ha fatto? E mi dice, beh, asciugate le mani di fuori, boh, e ho detto, boh, da me c'era che stava passando per salutare a me. Oh yeah. E sotto la, diciamo, sotto il bordo del molo, e lì ci sono le tane, quindi trovi saraghi belli, trovi di tutto, guarda, ne entra pesce, caspita se ne entra. No, io ero a mare di fuori, lì eravamo a, come si chiama? Verso l'Argentina, dai. Però un po' prima, Monte Ruginoso, come si chiama? Anche lì c'è stata brutta per arrivarci, però alla fine è uno spettacolo. E già ci avete fuori strada, voi per quello non c'è problema. Con i fuori strada ci si arriva a tre parti. Però è rischioso, negli scogli non ci vado più di notte. Da quando è caduto quel mio amico, no, non fa più andarci. Dai. Siamo andati una volta a pescare, ci fermano a Pozzo San Nicola, i carabinieri. Ci puntano il mitra, cazzo, che stanno qui, mi ha detto, ascolti, l'ho potuto lì, giovani, ma l'ho potuto lì il mitra nella faccia, ha detto, io non so con chi ho a che fare, scendete dalla macchina, documenti, apro il cofano, cazzo, mi ha visto le canne, mi ha visto le reti, dove state andando a pescare? E dove andate a pescare? E glielo abbiamo detto, che andavamo dopo la Pelosa, lì dove ci sono quelli che bastioni alti. A mare di fuori, lui mi ha detto, vabbè, poi passiamo a trovarvi, dai, manco mai, che abbiamo fatto amicizia con questi carabinieri, cazzo, siamo andati a pescare, mettiamo i filaccioni e ci allontaniamo uno dall'altro, barattoli, tutto canto, sento il barattolo, Antone, cazzo, no, il grongo, avvociato, cazzo, vado, cazzo, punto alla pila e vedo questo amico mio giù, con un gabbo, quasi neva, cazzo. Sono sceso, mentre stavo scendendo arrivano i carabinieri, e beh ragazzi, che pescando state, aiuto, sono venuti giù, cazzo, ci hanno dato una mano, cosa è successo? È caduto l'amico mio giù, cazzo, ci hanno dato una mano, era svenuto, cazzo, tutta la scapola fratturata, tutta fascia di faccia, lascia perdere, ma è più di notte, non te lo dico per cosa, però io ho avuto una brutta esperienza e lui è scivolato praticamente in quella melma che c'è negli scogli, il cazzo si è truccato russi. Meno male che gli è andata bene, se no se non me ne fossi accorto sarebbe annegato sicuramente. No, neanche noi rimaniamo mai di notte, cioè sempre prima del buio dobbiamo essere già in macchina. questo è un accordo che abbiamo fatto tutti e tre qua, perché a volte ci separiamo, non trovi un punto dove pescare, vicini ti allontani giustamente, però prima che faccia buio alla macchina, siamo già tutti e tre d'accordo. Poi lo portiamo a Pozzo San Nicola, c'era il medico di guardia, ha chiamato l'ambulanza, a casa l'ha buttata a Sassari d'urgenza, è stato 15 giorni ricoverato, era tutto spaccato, gli hanno messo punti in faccia, il braccio, la scapola ce l'aveva fuori, cazzo. E è andato da me che non si è fatto di neva. Un attimo, l'altro giorno anche io ho inciampato, ma no, ho appoggiato subito la mano. Ma secondo me sono inciampato perché stavo prendendo quella cura per uscire il calcolo, quindi è un vasodilatatore, quindi sicuramente mi ha abbassato la pressione, capito? E magari un po' mi si è piegata la gamba, mi è mancato magari la forza normale, e ho appoggiato la mano, meno male, mi è caduto il barattolo della pattura, meno male non è caduto giù, sennò già avrei pescato l'oceto senza pattura, però pazienza. È andata bene anche quella, dai. E lì poi sono quelle rocce che sembrano vulcaniche, figurati che le scarpe da trekking me le distrugge in poco tempo, il fondo in Vibram se lo mangia in poco tempo, per farti capire quanto è abrasiva quella roccia. È a punta, c'ha le punte. Babbo, io ti saluto che vado a mangiare, cazzo, mi sembra così strano che sia così tardi, mi sono dormito di brutto, ma proprio mi sono addormentato come sei entrato tu, un po' dopo, che ho detto, oh, io visto, faccio un po' di queriste, lo ricordo, mi sono addormentato, dalle scile adesso, mi sono rinnovo i macovini. Ti ho conciliato il sonno, dai. vuol dire che eri stanco, dai. Anche io che ho buttato dopo pranzo, mi sono addormentato anch'io perché giustamente il fisico te lo richiede. Dai, buona carica, buon tutto, alle prossimine. Ok, stammi bene, un abbraccio, ciao. Ciao Fra, ci sentiamo, stammi bene anche tu, ciao ciao. Tempo 10. Hola. Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Io non ci sono. Ciao Zaffa, ben sentito. Perché sei quasi 9.40? Come 9.40? È sempre uguale, io sono sempre così. Forse la radio è troppo forte. Ah, forse la radio è qualcosina di diverso, sì, sto utilizzando la Dunis anziché l'MC60. Infatti mi tocca mettere il volume a zero. Lo sento qualcuno, non lo sento. Ma è troppo amplificato secondo te? Sono troppo forti così per fare in locale, danno fastidio, soprattutto la sera quando segui anche altre cose. No, assolutamente d'accordo, cioè addirittura qualcuno ha detto l'altro giorno che non era amplificato, avevo fatto una prova col 60, no, non sta uscendo e non è amplificato, ripeto, mettetevi d'accordo. Io avrei mandato tutti quanti in banda aerea, che c'è la M, a vedere quanti aerei riuscivano a fare precipitare. È vero, ma io ho sempre il Mickey Gain A1, tengo dell'apparato, questo qui è... sarà a 2 più o meno, la Dunis è molto basso, se mi metto a fare guai, sono tutto attenuato, il compressore in posizione media, l'equalizzatore è tutto attenuato di certi punti, anche i 12 dB, i 270 Hz sono attenuati, gli acuti sono esaltati, no, sono neutri gli acuti, i 2000 sono neutri, gli altri sono tutti attenuati, figurati se mi metto a fare rumore con questo guai. Sì. Scusa che un attimo ero, sono distratto perché sono dovuto tornare indietro, perché c'è in funzione un attrezzo che deve fare un certo lavoro. Non ho capito, devi fare un attrezzo? No, ho detto che non ho risposto subito perché stavo facendo tornare la marcia con la radio un po' del pompe che sta scandagliando una cosa. Ah, ok. Ecco, ciao Romè. Scatta il rumore, abbassa, tu sì che sei forte, cosa è successo Riccardo? Io non lo so. Sei troppo distorto, cosa hai toccato? Questo brucia tutto. Si va meglio? Riccardo, cosa hai toccato? Sei in distorsione. Così va meglio? Ma perché stai sempre toccando Riccardo? Tieniti le regolazioni che abbiamo fatto l'altra volta, se no c'è il rischio che fai danno. Ma non ho toccato niente io, Non lo so. Sei entrato e tu tu sembravi che stessi ragliando. Ecco perché, Babbo era in banda laterale che stava facendo un 2DX che era un po' solita la propagazione e aveva alzato il mic gain, ecco perché. Tienilo sempre basso, ti siedi, le regolazioni e basta. Poi quando vai in banda laterale poi lo rimetti a posto suo, cerca di tenertele così, memorizzate, così non sta. Adesso vai, se ti ascoltava qualcuno, ma sta uscendo bene, forte, ed è tutta distorsione. Ho capito. Guarda, si sta lamentando e c'è anche ragione. Io sinceramente non mi sono mai ascoltato e devo fare delle regolazioni io personali con questo microfono. Metto che sono un po' troppo alto, mi sta dicendo. Figurati come sei entrato tu, sembravi quelli dalla giostra. Ho capito, sì. Come ho detto, si era lasciato il microfono in alto. Comunque adesso sta andando bene, sto usando l'alimentatore, sai di chi? Di Fabrizio, va benissimo. C'è anche Gianfranco, te lo rilancio. Avanti, Gianfranco, per i cardi. Sì, un attimo che mi scappa. Aspetta. L'ho perduto. No, eccolo qua. Sì, stavo dicendo che sotto a Riccardino si sente un rumore di ventola. Quindi non è proprio chiara la radio, ma arriva bene il segnale. La radio c'ha sotto qualcosa. Comunque ciao Gianfranco, l'ho spostato un po', è l'alimentatore. Metti un po' di mettila un attimo la portante. Mi sembra di sentirlo ancora. Confermi Roberto. Sì, purtroppo questi switching sono troppo tirati e purtroppo sono sempre attaccati. Io meno male mi sono pescato l'alimentatore definitivo, questo è uno chincep, non so se li conosci, senza ventola e niente, peso a 20 kg. È calcolato, teoricamente può dare più di 120 ampere, lo stanno facendo lavorare con 60 ampere continui, di picco ne dà anche di più. Però continui da 60 ampere, proprio non tu lo vedi, lo puoi tenere acceso quanto ti piace con 3 o 4 apparati, non, nemmeno al collo li gira. Poi c'ha dei dissipatori enormi dentro, il trasformatore se lo vedi da paura. È un apparecchio che costa anche un po' di soldi, ne avevo trovato un'occasione, ma costa più di 500 euro l'alimentazione. Ma poi il contattore ruota tipo ventilatore, così. Questo di coso sono di quegli alimentatori tipo computer che sono con la griglietta, ce l'hai presente, derivazione computer, anche se è buono, perché se l'ha prestato Fabrizio è un ottimo alimentatore, però sono sempre un po' tirati, nel senso per darti quegli ampere ti sudano proprio al massimo i transistor, in modo che ti guadagni la mano un cliente in più dicendo che c'ha più amperaggio, però secondo me è meglio sempre tenerti più basso come corrente, anziché tirarle troppo il collo. Cioè se uno tira 30 ampere fallo lavorare per 15 ampere continui e non metti il ventola. Io ho da tanti anni l'Iamo, che è sempre un alimentatore di quelli, switching, ecco. Ogni tanto mi scappa il nome, switching, e sono tranquillo, è filtrato per i soliti problemi che danno, perché ogni tanto fanno qualche segnale spurio. Questo non è mai fatto perché è filtrato, è da 30 ampere. Sta alimentando, alimenta tanti apparati, solo che sono tutti apparati Siri, il cui assorbimento è molto limitato perché la maggior parte deve lavorare anche con pannelli solari, e l'altro è da 50 ampere che mi sembra un summer camp, dovrebbe essere. E poi in caso di mancanza di luce ci sono a disposizione altri 100 ampere di emergenza di batteria, c'è il gruppo di continuità? No, direttamente una batteria, volendo c'è anche il gruppo, ma no, fa troppe spurie, hai capito? Ci vogliono quelli ad onda costante, ad onda pura, non quelli a 4 soldi, quindi non vale la pena, hai capito? No, prendo il gruppo di continuità di computer, non parlo di cosa. Tu con l'inverte, c'è la 220, te l'hai con l'inverte? No. La batteria è sempre tramite i soliti affari automatici che viene tenuta a carica, poi se manca la luce premi un pulsante, toc, alimenta il codo. Poi il computer mancassero, ci sono anche quelli a 12 volt, quelli piccoli. Adesso ce n'è uno piccolo che però è diventato a... non lo so se sono 12 volt, non lo so neanche perché l'ho preso da poco, che infatti sta lavorando, non so se si sente qualche disturbo, però è sempre in funzione.